La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Eccoci qua come ogni sabato a raccontarvi tutto il cinema che c'è da Radio 24. Un saluto da Franco D'Assisi, La rosa purpurea, in una settimana con tante proposte, soprattutto d'autore, molto interessanti, con il cinema di qualità anche italiano. Avremo Roberto Faenza che ci racconterà un po' questo film molto intrigante, La verità sta in cielo, sul caso di Emanuele Orlandi. Abbiamo la grande spettacolo del cinema con Deepwater, Inferno sull'oceano. Abbiamo la partnership con il Trailers Film Fest di Milano, che chiude proprio i battenti stasera, fra poche ore, dalle 20:30 in poi, la serata di premiazione dei trailer più belli dell'anno. Noi ci saremo, tra l'altro, e l'invito, visto che è tutto gratuito, al Teatro Dal Verme di Milano, e di esserci anche voi se ce la fate, perché sarà una gran bella serata. E allora cominciamo subito ad entrare nel vivo della trasmissione con la prima proposta di questa settimana. Un film firmato da un regista che ha sempre avuto una cifra molto interessante nel cinema francese degli ultimi anni, André Téchiné, con una storia di adolescenza e di rapporto con i genitori, di grande tensione morale, ma anche quasi portata avanti come una sorta di thriller. Si intitola Quando hai 17 anni, l'ha visto per noi Chiara Pizzimenti. È andata bene la giornata? Sì. Lo conosci, Tomà? Sì, è nella mia classe. Vuole fare il veterinario e mi piace molto. Non gli importa di nessuno. Damien e Thomas sembrano non potersi vedere. Sono studenti in un liceo francese nella zona dei Pirenei. Il primo è figlio di un pilota dell'esercito in missione all'estero. La madre è medico. Il secondo è invece un ragazzo di colore adottato da una famiglia che vive in una fattoria in montagna. Thomas, Tom, a scuola sta sempre da solo, tranne quando provoca Damien. Lo fa cadere, lo colpisce, in apparenza senza un vero motivo. Saranno costretti a vivere insieme quando la madre di Tom, incinta, è obbligata a stare in ospedale e la dottoressa si offre di ospitare il ragazzo. I professori dicono che non ti interessi più a niente, che ti isoli dagli altri. Ti è piaciuto quando ti ha visitato? Ti sei eccitato? Perché voi due fate sempre a botte? Perché non ci piacciamo. C'è dell'altro? Sono i tre trimestri della gravidanza a scandire i tempi del film e lo scontro, confronto, rapporto fra Damien e Thomas. Tre passaggi per arrivare alla definizione del sentimento e della sessualità fra i due ragazzi. Un sentimento che è evidente a chi guarda, ma muto, nascosto, negato, costretto a passare attraverso le botte per i protagonisti. Più va avanti con gli anni, l'ormai ultra settantenne André Téchiné meglio sembra raccontare il tormento della gioventù. Dopo l'età acerba arriva Quando hai 17 anni, l'età delle speranze e delle chimere, cara al poeta Rimbaud. Racconto di una passione adolescenziale e insieme di una crescita personale. Indaga l'animo umano Téchiné e lo fa in modo che appassiona lo spettatore, avido di sapere se Damien e Tom avranno pace e quell'amore che insegna la dottoressa, che è confidenza nella vita e addio a ogni pregiudizio. Nessuna spettacolarizzazione, ma la chiarezza dell'animo umano che si specchia nel duro paesaggio delle montagne. Bon, tout ça, j'ai vu qu'avec ça pouvait dégager de l'électricité et que la caméra pouvait enregistrer ces. C'è un'elettricità tra loro, dice il regista, e dice di averlo visto subito fra Kishimo Teclein e Corentin Fila, i due ragazzi. Una elettricità mitigata dalla saggezza di Sandrine Kiberlain, madre di Damien ed emblema di tutti i complessi rapporti fra madre e figlio. Bisogna distinguere tra desiderio e bisogno. Bisogno è un'esigenza naturale. Desiderio è artificiale, superfluo. Pensi di aver capito tutto e non hai capito che ho paura. Tu non hai fiducia, Damien. Fiducia in te, negli altri, nella vita. Sono contento che sei qui. E questo era André Téchiné, nei cinema italiani ce l'ha raccontato Chiara Pizzimenti con questo bel film Quando hai 17 anni. Adesso siamo già in collegamento con Boris Sollazzo, che ci racconterà fra poco, come sempre, le novità al cinema. Prima però voglio fare insieme a Boris un saluto a un collega, un amico che non c'è più. Se n'è andato alla fine della scorsa settimana. Luca Svizzeretto, 38 anni, giornalista cinematografico molto conosciuto nell'ambiente, da anni lottava con una malattia davvero tremenda, lo faceva sempre con la testa alta, con grande rigore e senza mai perdere la capacità di sognare e di progettare il suo futuro. Per Boris, che è un amico della Rosa Purpurea ormai da una decade, Luca era più di un amico invece. E allora Boris, penso che sia giusto che sia tu a salutare Luca. Ho perso un fratello, ma forse in questa sede la cosa più importante è che abbiamo perso quello che siamo noi due e quello che sono tutti gli ascoltatori, cioè un grande amante del cinema, una persona che trovava la gioia di vivere nell'amare questa arte e servirla al meglio. Luca non ha avuto tutto quello che meritava da questo mondo e forse quello che gli ha dato Luca noi non ce lo meritavamo. Detto questo, se n'è andato progettando la trasferta a Torino, se n'è andato progettando la sua presenza al Festival di Roma, se n'è andato continuando ad amare il cinema, e la cosa migliore che possiamo farlo secondo me è ricordarlo, tornare a leggerlo, andare a vedere le sue video interviste, perché ci ha lasciato tanto e ce n'erano pochi come lui, sia come persona sia come critici cinematografici. Quindi mi faceva piacere salutarlo da qua, perché appunto Luca era una persona speciale e purtroppo la frase fatta, se ne vanno sempre migliori, in questo caso vale anche di più. Ciao Luca, allora aiuta a far vedere dei buoni film anche dove ti trovi adesso. Viabilità, fra poco torniamo, si torna al cinema giocato, si torna all'attualità cinematografica con Deepwater Horizon. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta La Rosa Purpurea. Siamo una grande società, milioni di parti in movimento. Ciao, ciao, come va? Lavoriamo molto duramente per garantire che queste parti siano un mezzo per raggiungere un fine remunerativo per tutti noi. Felice di vedermi? Dai, avvicinati al computer, guardami. Sei un super papà. Lo vedi anche tu? Uscite tutti da lì! E allora, avete sentito suoni, crepitii, esplosioni in un giorno normale, che doveva essere normale, che ha cambiato un po' la storia di questa compagnia. Deepwater Horizon nel titolo originale, solo Deepwater, inferno sull'oceano, nel titolo italiano, per raccontare una tragedia, uno dei più gravi disastri ambientali e mondiali causati dall'uomo. 20 aprile 2010, la Deepwater Horizon è una piattaforma petrolifera nel Golfo del Messico, sulla quale lavorano 126 persone. Quel giorno improvvisamente qualcosa non funziona e quelle vite vengono messe a repentaglio da un incidente che avrà delle conseguenze gravissime. A interpretare il ruolo del protagonista di questo film c'è Mark Wahlberg, un viso giusto, duro, arcigno per questo ruolo, ma in un cast che vede anche Kate Hudson, Kurt Russell, John Malkovich, tanto per citare solo i più famosi. Boris, un ritorno del film di tragedia, del film di disastro, il cosiddetto disaster movie. Assolutamente sì, però anche un ritorno di quel cinema civile classico hollywoodiano. È un nobile matrimonio quello che è Peter Berg con Mark Wahlberg, che ormai rappresentano un brand congiunto, sono amici nella vita, molto amici nella vita, e sono anche sodali, sono al secondo film insieme, presto ne faranno un terzo. E Deepwater Horizon è molto interessante come progetto, perché non rinuncia agli schemi più classici del cinema hollywoodiano, che vuole raccontare qualcosa di importante, e teniamo presente che la tragedia, il disastro ambientale del 20 aprile del 2010 è stato individuato come tra le cinque date più importanti del mandato Obama dallo stesso Presidente degli Stati Uniti, quindi questo per far capire la portata della tragedia che si è sviluppata in quel giorno. Quel giorno va a fuoco, risale un incendio dalla trivella, va a fuoco questa piattaforma e 123 persone devono decidere se mettersi in salvo, se salvare la propria vita o cercare di arginare quello che comunque sarà un drammatico disastro ambientale. Tutti prendono una sola decisione, cioè quella di rimanere e cercare, tra virgolette, di salvare il mondo. Non ci riusciranno del tutto perché vengono sversati nell'oceano, purtroppo, diversi milioni di litri di materiale tossico, ma sicuramente arginano quella che poteva essere una tragedia ancora più grande. Lo fanno al prezzo della loro vita, una dozzina di uomini perderanno la vita per questo estremo sacrificio. Noi però seguiamo il personaggio di Mark Wahlberg, che è stato anche consulente, il personaggio reale è stato anche consulente del film, che porta avanti una lotta parallela, cioè quella di tornare dalla sua famiglia, perché lui quel lavoro ad alto rischio lo ha preso per migliorare le condizioni economiche della propria famiglia e salvare il mondo, perché di questo si parla. Quindi il disaster movie di solito si fonda su un ipotetico salvataggio del mondo, in questo caso è reale. Trovo il film molto molto interessante perché la regia magari può sembrare scolastica a volte, ma è supportata da una produzione molto potente, molto forte, che regala scene molto spettacolari, e dall'altra parte l'interpretazione di Mark Wahlberg, che ormai si sta innamorando sempre di più di questi personaggi in qualche modo pedagogici, in questi eroi per caso, in questi eroi normali che diventano eroi perché si limitano a fare il proprio dovere, ma in un mondo del genere questa diventa un superpotere eccezionale. In un mondo di supereroi, in un mondo marvelizzato, noi ci ricordiamo che camminiamo spesso in mezzo agli eroi e neanche ce ne accorgiamo. Wahlberg fa un grande lavoro di immedesimazione anche fisica, ingrassa per poter interpretare questo personaggio, fa un grande lavoro di recitazione nell'unire un inevitabile ruolo d'azione a un ruolo anche però di concetto, e secondo me Peter Berg e Mark Wahlberg alla fine, con questo cast straordinario, portano a casa la pagnotta, perché raccontano un film che ti tiene inchiodato alla poltrona con grande suspense, con grande potenza narrativa e visiva, e allo stesso tempo ci raccontano qualcosa che noi non dobbiamo dimenticare, perché la tragedia che si è sviluppata per nella piattaforma della BP è qualcosa di cui ancora paghiamo le conseguenze, e loro vogliono ricordare chi si è sacrificato per noi, ma anche che cosa è successo. E questo è uno dei ruoli del cinema, e quindi va promosso sia civilmente che cinematograficamente. Questa piattaforma si trova a 20 miglia a sud della Louisiana. Natalie, sono Felicia Williams, i nostri mariti lavorano sulla Deepwater Horizon insieme. Ho telefonato alla guardia costiera, hanno confermato l'incendio. Mi chiedevo se tu per caso avevi altre informazioni. Ti ha detto altro la guardia costiera? Solo che è scoppiato un incendio. Shelley ha saputo che qualcuno si è buttato in mare. Che cosa fai? Non è il momento. Che succede? Te lo dico dopo. E il nostro Boris Sollazzo è anche andato a raccogliere la voce di Mark Wahlberg proprio sul cast, su questi nomi, Malkovich, Kurt Russell. Come è stato messo insieme e quale leva ha usato per spingerli a fare questo film? I think they all felt compelled to be a part of something that was much more important than their own individual experience as actors. Tutti quanti si sono sentiti spinti a far parte di un qualcosa di così importante e a vivere un'esperienza così profonda e di così grande rilievo. Una cosa che come attore non capita tanto spesso. L'aspetto fondamentale che Pete e io abbiamo stabilito fin dall'inizio, cercando immediatamente di dare questa impronta al film, è stato rendere omaggio a queste 11 vite perdute e ai coraggiosi sopravvissuti. Una volta compreso tutto questo, tutti i componenti del cast si sono resi conto che non era tanto quello che un attore poteva trarre, ma il contributo che poteva dare per onorare la memoria di queste persone. E E questo era Deepwater Horizon con Mark Wahlberg, l'avete sentito qui alla Rosa Purpurea. Giochiamo insieme, è arrivato il momento, come sempre, di aprire la finestra della nostra mail, la rosapurpurea@radio24.it, ai nostri ascoltatori per farvi indovinare e farvi vincere il Blu-ray di questo film. Non ti arrendi se nel tuo turno di guardia muore una persona. Chi si vuole arrendere? Dobbiamo assumerci le responsabilità per le nostre azioni. Questo documento sposta solo la colpa. Mi dispiace, è pericolosamente arrogante. Stiamo parlando delle Nazioni Unite. E allora, stiamo parlando delle Nazioni Unite, parliamo di responsabilità. La Rosa Purpurea @radio24.it, scriveteci il titolo del film, se l'avete già individuato, e il vostro indirizzo per provare a vincere una delle due copie in Blu-ray che vi regaleremo, ma che soprattutto vi rimetteremo in palio fra pochi minuti con un'altra traccia. Cosa succede in un appartamento, in un condominio, anzi, di New York dalle 9 del mattino alle 5 del pomeriggio, quando tutti i padroni di casa se ne vanno per andare a lavorare e le bestie, i gatti, i cani, i criceti, i porcellini d'India rimangono da soli nelle case? È una domanda che si pongono e a cui provano a rispondere con un divertente film in digital animation gli autori di Pets. Ciao Max! Ciao Gildina! Programmi per oggi? Sì, molte, molte cose oggi, Gildina. Ho grandi progetti, me ne starò qui seduto ad aspettare che Katie torni a casa. Oh, com'è eccitante! Beh, non voglio interromperti, ho molte cose da fare anch'io! Boris, partiamo dal botteghino. 350 e rotti milioni di incasso, 364 milioni di dollari di incasso negli Stati Uniti. Subito in testa il primo giorno di programmazione in Italia. Pets è una delle operazioni non Disney nel campo dell'animazione meglio riuscite, almeno in termini di, appunto, di appeal di pubblico, della storia del cinema. Però è un film, Boris, che guarda molto a Disney, un film divertente, magari un po' discontinuo nel suo fluire, sicuramente come sempre per tutta la famiglia, bambini, papà, mamme, fratelli e nonni, però che guarda molto a Disney perché c'è dentro un pizzico di Lilli il Vagabondo, una puntina di Toy Story 2, tutto amalgamato con un bel po' di Aristogatti. Assolutamente sì, ci metterei anche Madagascar nella parte centrale in cui c'è appunto questa fuga e questa avventura e la ricerca degli altri, dell'altra, del resto della comunità degli animali che prova a salvare i propri eroi. Ed è la forza, secondo me, commerciale di questo film, non del tutto quella creativa. Intendiamoci, Pezzo è un'operazione riuscita? Assolutamente sì, al di là degli incassi. È un film godibilissimo, un film molto divertente, è un film con delle bellissime intuizioni. Ed è fatto bene a livello di animazione, è fatto bene a livello di regia, i dialoghi sono riusciti. È un peccato, secondo me, che Pets non abbia avuto un pochino più di coraggio, che non avrebbe probabilmente tolto nulla alla sua anima pop e alla sua anima commerciale. Perché? Perché lo vedi all'inizio del film, il titolo del film era La vita segreta degli animali. Ecco, La vita segreta degli animali è la grande intuizione, alla, se vogliamo, alla Inside Out di questa opera, perché nei primi 15-20 minuti noi vediamo come vivono o come immaginiamo che potrebbero vivere i nostri animali domestici in nostra assenza. L'icona di questa intuizione è il barboncino molto elegante, molto preciso, che appena se ne va il padrone mette i System of a Down e fa iniziare un rave tra animali domestici nella propria casa, il che fa ovviamente scoppiare a ridere gli spettatori, sia quelli più grandi che quelli più piccoli, ma che rappresenta anche quella parte più politicamente scorretta, più anche un po' demenziale del film, o L'avvoltoio pentito e tanti altri. Secondo me Pets, e qui io individuo la discontinuità a cui tu accennavi, si lascia andare troppo all'anima più facile, cioè quella dell'avventura in senso stretto, quella dell'avventura alla Madagascar, dandogli troppo spazio. Io avrei voluto vedere di più La vita segreta degli animali e meno l'avventura più classica dei due eroi all'interno di una grande città. Detto questo, Pets è il più classico, dei family movie che fa andare nonni, genitori e nipoti e figli al cinema e li fa divertire tutti quanti, quindi va benissimo così. Duke, Katie si arrabbierà moltissimo quando vedrà questo. Katie darà di matto quando vedrà come hai sfasciato tutta la casa. Oh, è solo un vaso. Ah sì, Duke? Ah sì? Oh, ma che peccato. Che cosa fai? Wow, che cosa faccio? Niente, io sono solo un cagnolino delizioso, io. Che ti sa che non farei nulla del genere? Oh no! Ah! Questo può essere solo opera di un randagio pericoloso che non è riuscito a gettare le basi di una fiducia. Tu sei il cane nuovo. La vendetta del cagnolino Max, il protagonista, quando in casa arriva un randagione enorme, allora cerca di fargli dare la colpa di tutte le malefatte per farlo sloggiare velocemente. Pets, vita d'animali, il titolo originale non era male, The Secret Life of Pets, la vita segreta degli animali, si poteva anche fare in questo modo. Grazie Boris, ci sentiamo la prossima settimana. Alla prossima settimana e buon cinema, soprattutto a Luca. E allora, linea alla regia, noi torniamo fra poco, sarà con noi Roberto Faenza per parlare de La verità sta in cielo. La rosa purpurea. Continuiamo con La rosa purpurea, continuiamo con le proposte cinematografiche di questo fine settimana. Sicuramente il film più interessante, importante, utile della settimana, e non solo per il cinema italiano, è quello che firma Roberto Faenza. Si intitola La verità sta in cielo, un titolo molto così che suona molto dolce nelle orecchie, ma che nasconde uno dei drammi e degli enigmi più incredibili della cronaca italiana del dopoguerra. 22 giugno 1983, una ragazza di 15 anni, Emanuela Orlandi, sparisce come nel nulla dal centro di Roma, non farà più ritorno, è figlia di un commesso pontificio e subito si capisce che dentro questa sparizione non c'è un semplice sequestro per ottenere un riscatto, non c'è una vendetta verso la famiglia, c'è qualcosa di più. Che c'è? Stai tranquillo, è tutto organizzato. Desidero esprimere la viva partecipazione con cui sono vicino alla famiglia Orlandi. Dica Sua Eminenza che invierò quella persona nell'orario più conveniente. Si sta cercando di fare quanto è umanamente possibile per contribuire alla felice soluzione della dolorosa vicenda. Voglio sapere perché De Pedis ha gestito il sequestro di Emanuela. Cosa può esserci di così terribile da indurre il Vaticano al silenzio? Gli interrogativi anche dalla clip del film, nel cast Riccardo Scamarcio, Maya Sansa, Greta Scarano, Valentina Lodovini, anche Shel Shapiro, un cast corale per un film che ha ovviamente tante sfaccettature. Con noi, come dicevamo prima, Roberto Faenza, che saluto. Ciao Roberto, grazie per aver accettato il nostro invito. Un saluto affettuoso alla Rosa Purpurea che ascolto tutte le settimane. Mi trovi in un momento di furibondite. Oh là là, come mai? Perché ho finito di leggere un attacco sgangherato, osceno, fuori dalla scena di Famiglia Cristiana al film, in cui si nega tutto, che la Banca del Vaticano riciclasse il denaro della mafia, acclarato dalle sentenze, che l'FBI sia venuto per arrestare il capo dello IOR, Marcinkus, che Sabrina Minardi abbia detto delle cose attendibili. Insomma, una cosa, invece di aprire un dialogo, un confronto, un attacco veramente privo di alcun senso. Mi dispiace per la chiesa di Bergoglio che abbia ancora delle persone che parlano in questa maniera. Roberto, però, mi viene da dire però, proprio in termini versativi, e tu hai fatto invece un lavoro di minuziosa ricerca sulle carte, sui documenti, sui video, sulle sentenze, no? Guarda, ci sono 5 anni di lavoro a fianco dei magistrati che hanno seguito dal 1983 questo caso, e soprattutto con l'appoggio della famiglia Orlandi, di Pietro Orlandi, senza il quale non sarei riuscito a portare a compimento questo film. Ecco, questo film, di solito questi film, soprattutto realizzati così tanti anni dopo, hanno sì il pregio, diciamo così, del volo d'uccello, cioè di avere una visuale alta che ti fa vedere tutto insieme. Però penso per esempio al caso di Piazza Fontana, per dirne uno, quando sono irrisolti, quando non hanno una sentenza che abbia veramente fatto capire, bisogna molto leggerli un po' in filigrana, no? Qual è la lettura alla fine, che la chiave che il tuo film dà allo spettatore per rileggere un po' questa storia? Beh, l'hai detto tu, la mancanza di una sentenza, cioè la giustizia non ha fatto giustizia. Nel nostro film c'è una scena finale veramente straordinaria, perché nessuno mai sapeva di questa negoziazione tra lo Stato italiano e lo Stato più piccolo del mondo, cioè il Vaticano, in cui ci sarebbe un do ut des. Tu togli dalla Basilica Santa Apollinare la salma del boss, noi ti consegniamo la documentazione su Emanuela. Noi sappiamo che il Vaticano ha questa documentazione, ci chiediamo perché non riesce a avere il coraggio di tirarla fuori. Sulle note della colonna sonora della Verità sta in cielo di Teo Teardo vogliamo fare un'altra domanda a Roberto Faenza. Il cast, Roberto, hai scelto volti molto intensi, penso a Maya Sansa per esempio, alla stessa Greta Scarano. Come hai lavorato sulla immedesimazione dell'italiano degli anni Ottanta? Perché sono passati 30 anni, è un po', non è solo una questione di costumi, è anche una questione proprio di modalità quasi sociologiche, no? Con le quali noi abbiamo, i nostri personaggi sono cambiati. Ecco, come hai scelto il cast in questo senso? Ma guarda, questa è una storia molto spettacolare e quindi ho cercato di prendere, di dare il volto più, non so, più pregnante che abbiamo oggi nel nostro cinema, tipo gli attori che appena enucleato. E per esempio Greta Scarano fa due parti, l'amante del boss giovane a 20 anni e quella di 60 anni distrutta dalla droga, e nessuno la riconosce tanto il trucco eccezionale a cui si è sottoposta. E però voglio dire una cosa a proposito di quello dei tuoi rilievi. È vero che è una storia che parte dall'83, ma è una storia che arriva oggi, tant'è che i protagonisti di Mafia Capitale sono gli stessi che troviamo nel sequestro degli Orlandi, per non citare dei personaggi tuttora viventi tipo Flavio Carboni, il cosiddetto faccendiere, che ancora oggi viene preso dal padre di una ministra per consultare una banca. Siamo veramente alla oscenità quotidiana. Che cazzo! Ma tu lo sapevi chi era davvero De Pedis? A me? Lui mi aveva detto che gestiva una catena di supermercati. Sabrina, veramente? Tu non sapevi che De Pedis era un latitante? No, non lo sapevo. Io l'ho scoperto una mattina, quando mia madre mi portò il giornale e c'era la foto sua, e mi disse, baby, ma cocchette frequenti. Roberto, nella tua filmografia tu hai incontrato spesso quasi delle passioni, delle tematiche che ti hanno appassionato. Penso alla psicanalisi che è stata con te per alcuni film, penso ai grandi classici della letteratura, dai Viceré a Sostiene Pereira, però hai anche già incontrato, facciamo il titolo più, forse più eclatante, Alla luce del sole su Don Puglisi, La cronaca italiana. Ecco, come si rapporta questo tuo film su Emanuele Orlandi con gli altri capitoli della tua carriera dedicati a quello che una volta si chiamava il cinema d'impegno civile? Ma io penso che La verità stia in cielo non sia soltanto un film sul sequestro di Emanuela, ma sia una specie di Guernica italiana, gli orrori di questo paese da 30 anni ad oggi. E in questo penso che si colleghi a un mio film precedente, Forza Italia, purtroppo sequestrato ma è poi uscito di nuovo, che mi è costato 18 anni di esilio, perché io per 18 anni ho fatto solo film stranieri. Ecco, spero che La verità stia in cielo non mi porti a un altro esilio. Beh, speriamo davvero, davvero di no. Che tipo di pubblico ti aspetti di raggiungere? Sicuramente un pubblico, diciamo, dai 25 anni in su, però mi ripropongo di riportarlo anche nelle scuole dove questa storia non è conosciuta, perché penso che soprattutto i giovani debbano sapere cose che non vengono loro insegnate. Quali sono state le reazioni della famiglia Orlandi? Beh, la famiglia Orlandi mi ha totalmente appoggiato in questa vicenda, soprattutto Pietro. Anzi, devo dire che senza Pietro noi non saremmo arrivati a poter parlare con delle persone che non hanno mai detto la verità prima di oggi e che finalmente si sono aperte, e soprattutto senza Pietro non sarei riuscito ad avvicinare un insieme di magistrati che si sono rifiutati di chiudere il procedimento e di archiviare tutto. Ecco, Roberto, c'è una dichiarazione che tu hai fatto in un'intervista che mi ha molto incuriosito, che è che il tuo film arriva ad un metro dalla verità. Cos'è, una dichiarazione di impotenza? Cioè il cinema non può arrivare a colmare l'ultimo metro, tanto per citare l'ultimo miglio, o invece è lì che deve fermarsi? Dunque, io questo, ripeto, questa scena finale arriva al metro della verità. Avrei anche potuto andare avanti, perché noi sappiamo cosa è accaduto. Io però non lo voglio dire, perché penso che ci sia chi lo deve dire. Ci sono nelle istituzioni italiane e nelle istituzioni del Vaticano persone che sanno. Credo che questo film potrebbe indurle finalmente a parlare. E poi confido anche sulla trasparenza di Papa Bergoglio, che sta veramente rivoltando come un calzino la curia malata, l'ha detto lui, malata di Alzheimer. E sono convinto che se Papa Bergoglio saprà di questo film, potrebbe dire qualcosa che tutti noi aspettiamo. Lo saprà di questo film? Sì che saprà di questo film. Penso di sì. Vedo, se Famiglia Cristiana oggi ci attacca furibondamente, credo che qualcuno gli dirà anche queste cose. Roberto Faenza, grazie per essere stato con noi alla Rosa Purpurea. E insomma, ricordiamo, nelle sale di tutta Italia, La verità sta in cielo, il caso Emanuele Orlandi. Complimenti per la Rosa Purpurea, avanti tutta. Ciao, ciao. Ciao, grazie. Ciao Roberto, ciao. Ciao. E allora, questo un altro dei film più interessanti di questo weekend, senza ombra di dubbio. Noi a questo punto giochiamo ancora insieme, perché dobbiamo farvi ascoltare la seconda traccia del film misterioso di oggi. Senti, volevo dire, so che conosci molte persone super, perciò è un super piacere per me. Ti hanno detto contro chi combattiamo? Qualcosa riguardo dei psico-assassini? Super persone, super piacere, fatevi venire in mente qualcosa per questo film. E se avete indovinato di che film si tratta, La Rosa Purpurea, @radio24.it, titolo del film e vostro indirizzo. Fra poco sveliamo di che film si tratta, ma i vincitori li ascolterete la prossima settimana. Viabilità, torniamo fra poco con tutto il cinema da vedere in casa. Scegliete la vita, scegliete un lavoro, scegliete una carriera, scegliete la famiglia, scegliete un maxi programma radiofonico. Scegliete una frequenza, una giornata, un orario, un conduttore. Scegliete Voice Anatomy. Voice Anatomy, ogni domenica alle 14.30 su Radio 24. Un programma di Pino Insegno. La Rosa Purpurea. Eccoci qua, La Rosa Purpurea torna con un'occhiata ai botteghini. Abbiamo accennato prima della buona partenza di alcuni film questa settimana per quanto concerne il cinema italiano, Pez che ha cominciato molto molto meglio degli altri, ma a livello stagionale c'è da segnalare, ed è una notizia, il sorpasso di Alla ricerca di Dory, il disneyano Finding Dory, ai danni di Suicide Squad, che era stata una delle assolute sorprese di questo inizio di stagione. Parliamo dei film usciti dopo il primo agosto, ovviamente. Adesso La ricerca di Dory, con 13.350.000 euro, e ancora incassi da fare perché il film è ancora nelle sale, è diventato il film più visto della stagione. Ovviamente siamo ancora abbastanza all'inizio della stagione, e c'è da dire che tra fumetti, supereroi, cartoni animati, la classifica è già ingombra, perché Alla ricerca di Dory, poi Suicide Squad, poi L'era glaciale, poi ecco, io prima di te è il film di in carne e ossa, comunque non legato a un fumetto o a dei supereroi, che si insinua con i suoi 7 milioni di incasso in questa parte alta della classifica. Un'altra notizia, che è anche un invito, come dicevo in apertura di trasmissione, fra poche ore, verso le 20.30, al teatro Dal Verme di Milano, in Piazza Castello, serata finale del Trailers Film Fest, che per la prima volta a Milano, dopo tanti anni a Catania, premia comunque annualmente i migliori trailer dell'anno. Io sarò lì per dare anche qualcuno di questi premi ai migliori traileristi che hanno composto questi trailer, ma sarà una serata molto bella, anche perché ci sarà un'anteprima per tutto il pubblico totalmente gratuita. Mike and Dave, un matrimonio da sballo, con Zac Efron e Anna Kendrick, una commedia di quelle belle spintarelle, per cui insomma, se volete fate un salto. Alcuni nostri ascoltatori la settimana scorsa hanno vinto la possibilità di partecipare in una postazione privilegiata, con anche una bella sorpresa, eccetera, ma per tutti gli altri le porte del Dal Verme sono aperte, quindi vi aspettiamo lì. E allora è arrivato il momento di sentire con quale traccia avevamo giocato la settimana scorsa. Hai già un'idea di cosa farei di questo posto una volta tuo? Guardiano, ho rinunciato al mio voto! Non volevo venire, lo giuro, guardiano! Li ho esortati a trovarvi, gliel'ho detto! Dovete essere voi a spiegare! E allora, si trattava di Warcraft, uno dei film della stagione scorsa, a mio modo di vedere tra l'altro anche abbastanza sorprendenti, un film che raccontava l'epica battaglia fra orchi buoni e orchi cattivi. Hanno vinto due ascoltatori della provincia di Treviso. Ogni tanto i nostri ascoltatori sono così, diciamo, monodirezionali per quanto riguarda la provenienza: Francesca Tocchet di Vittorio Veneto e Fabio Bredariol di Preganziol. Sembra tutto in rima. E allora, loro i vincitori del Blu-ray di Warcraft, che ci facciamo raccontare in questa uscita dagli amici di Film TV. È con noi Giulio San Giorgio. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, per parlare di Warcraft bisogna fare una piccola premessa che ha a che fare con l'ambiente dei videogiochi. Warcraft è una delle saghe più importanti di videogame strategici, di un gioco di gestione della guerra, ed è proprio un prodotto centrale nell'evoluzione di quei videogiochi a più giocatori, giocatori che giocano online. Nel 2001 un fondatore di questo, un programmatore di questo videogioco, sottolineava che la sensazione di trovarsi da soli di fronte a uno schermo e realizzare che dall'altra parte c'è un essere senziente che sta pianificando la propria, la tua distruzione, è qualcosa di travolgente. Il gioco poi inizia ad avere tantissimi utenti fino ad arrivare a 12 milioni. Nel portare al cinema questa, la premessa di questa saga di videogiochi, infatti il film si chiama L'Inizio, che è, tra l'altro, è il primo colossal di un regista di sci-fi filosofica a basso costo, Duncan Jones, famoso altrimenti per essere il figlio di David Bowie, ma anche per essere un grande regista di fantascienza a basso costo. Questa questione è proprio il cuore pensante del film, cioè il fulcro del gioco è quella sensazione, la presenza angosciante dell'altro. E per chi vuole, in fondo, l'allegoria in questo film molto spettacolare è servita, perché abbiamo un regno multiculturale invaso da vandalici orchi provenienti da un mondo distrutto e un capo che è detentore di energie, di risorse energetiche privilegiate. L'estetica è quella di iperrealismo cartoonistico, ci sono tracce di fantasy barbarico anni 80, il finale è aperto per eventuali sequel, il riversamento Blu-ray è ottimo e gli extra sono tantissimi, making of, errori, approfondimenti sul rapporto tra gioco e film. E questo quindi il nostro game della scorsa settimana, Warcraft. Per quanto concerne invece le segnalazioni di TV, Giulio, un'occhiata al centro della prossima settimana. Intanto l'11 ottobre, perché c'è Mozzarella Stories, diretto da De Angelis, che tra l'altro è nelle sale adesso con Indivisibili, su Rai Movie alle 14.10. Sì, l'impero della mozzarella di bufala di un boss del casertano è in pericolo a causa della concorrenza sleale di un caseificio cinese. De Angelis esordisce con un'opera veramente eccentrica, una bizzarria tra il film di mafia e il musicarello che sembra un controcanto a Gomorra, con l'energia però e la vitalità di un Emir Kusturica che, tra l'altro, innamoratosi dei colti del regista napoletano, decise di produrre questo film. È una farsa rotta di collo che se ne frega del realismo ma punta dritta al cuore delle cose. E allora, appuntamento con Mozzarella Stories l'11 ottobre su Rai Movie alle 14.10. Mercoledì 12 ottobre invece Vera Cruz di Robert Aldrich, un grande classico, su Rai Movie alle 21. Sì, siamo nel Messico del 1866, durante la rivoluzione popolare contro Massimiliano d'Asburgo. Il film è un delirante affresco di due uomini alle prese con questo grande evento storico che ovviamente supera gli avvenimenti di tutti i giorni. Aldrich, il regista, è un regista incredibile e gira un film che sta soprattutto nel duello tra due attori protagonisti, Gary Cooper e Burt Lancaster. Della pellicola, che è una folle intelligentissima e con un senso critico della storia, il giovane critico François Truffaut dice che era uno dei film della sua vita. E allora, con un film della vita di Truffaut, che è Vera Cruz di Aldrich, mercoledì 12 ottobre su Rai Movie alle 21, noi salutiamo Giulio San Giorgio, buon lavoro a tutta la redazione di Film TV. Ciao Franco, un saluto a tutti. E allora, siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione, non ci resta che svelare il nostro gioco di questa settimana. Il titolo giusto era Captain America Civil War. Settimana prossima i vincitori. Vi ricordo ancora l'appuntamento fra poco al Teatro Dal Verme di Milano con la serata finale di Trailers Film Fest, tutto gratuito. Vi aspetto e vi do appuntamento a sabato prossimo alle 18 per La Rosa Purpurea.